pagherei un milione anche più, anche l'ultima Marlboro darei, perché tu sei ci sta, perché accetti e ci stai. E così tu cadi giù, io non ti voglio già più, inaccessibile non sei, non con perché accetti e ci stai.